Ademecum legale contro gli abusi in divisa. Capitolo 2.7. Carcere dell'avvocato Marta Bergamini. Una volta divenuta definitiva la sentenza di condanna, o invece in applicazione di un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare, la pena della reclusione o la misura cautelare devono essere eseguite, ossia il condannato o imputato viene ristretto in carcere. Esistono vari tipi di carcere, anche detti istituti penitenziari, tutti amministrati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di diritta competenza del Ministero della Giustizia. La casa circondariale. Per gli imputati in custodia cautelare, in attesa del giudizio, e i condannati definitivi a pena detentiva inferiore a 5 anni, anche come residuo di pena. La casa di reclusione, in cui si trovano i detenuti condannati con sentenza definitiva ed una pena superiore a 5 anni. Carcere minorile per gli imputati o condannati definitivi minorenni e se entrano nel carcere da minorenni possono rimanervi fino al compimento del 25° anno di età. Carcere speciale dove vi sono i detenuti condannati per reati di criminalità organizzata. All'interno degli istituti penitenziari operano varie figure professionali, tra cui la polizia penitenziaria, gli educatori, il dirigente del carcere e il personale del DAP. I sanitari, i volontari, tutte le figure che cooperano affinché il detenuto sconti la pena in conformità al dettato dell'articolo 27 della Costituzione italiana. Tale norma prescrive che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, ed è ripresa ed ampliata dall'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario, detto OP, legge numero 354 del 26 luglio 1975, che infatti prevede il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità ed assicurare il rispetto della dignità della persona. Nei confronti dei condannati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti. Gli istituti penitenziari hanno dei locali destinati alle esigenze di vita individuale e locali per svolgere le attività comuni. Il detenuto può trascorrere 2 ore al giorno all'aperto, salvo casi di regimi particolari nei quali comunque è garantita come minimo 1 ora giornaliera, a volte non insieme agli altri detenuti. I locali devono essere adeguati a garantire delle buone condizioni di vita e dunque puliti, curati, areati, riscaldati, illuminati, sufficientemente ampi. Pare opportuno ricordare che l'Italia è stata condannata al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza 8 gennaio 2013 per violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU, poiché le condizioni di vita in cui erano costretti i detenuti nelle carceri italiane sono state considerate inumane e degradanti a causa dell'eccessivo numero di detenuti rispetto a quello consentito. In tale occasione sono stati stabiliti criteri, tra cui le dimensioni delle celle, minimo 4 metri quadri, la luce, la suddivisione degli spazi ed altri, ai quali l'Italia deve attenersi per non incorrere nuovamente in una condanna, ritenendo che la situazione di sovraffollamento non riguardasse solamente gli istituti di detenzione dei ricorrenti, ma tutto il sistema carcerario italiano. La Corte di Strasburgo, inoltre, ha imposto allo Stato italiano di predisporre, entro un anno dalla sentenza, un ricorso interno volto a offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento. È infatti stato introdotto con legge numero 117 del 2014 l'articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario, il quale prevede dei rimedi risarcitori in caso di violazione dell'articolo 3 CEDU. Laddove sia possibile, il detenuto con sua istanza al magistrato di sorveglianza può richiedere di detrarre 1 giorno per ogni 10 giorni di pregiudizio subito dal computo della pena da espiare, altrimenti il giudice liquida una somma a titolo di risarcimento del danno pari ad euro 8 per ogni giorno di detenzione vissuta in condizioni non conformi a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. I diritti dei detenuti. Nell'ambito del trattamento penitenziario, un valido strumento ai fini del reinserimento e della rieducazione del condannato è sicuramente riscontrabile nel pieno godimento dei diritti riconosciuti ai detenuti. La persona privata della libertà personale conserva la titolarità di alcuni diritti, garantiti in Costituzione e in varie fonti di derivazione internazionale. Si veda fra le tante la CEDU, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, le regole penitenziarie europee, la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, che non sono comprimibili per il solo fatto di essere detenuti, ma che possono essere regolamentati nel periodo di restrizione. È opportuno ricordare che i soggetti ristretti, sia in via definitiva che cautelare, hanno sempre il diritto di incontrare in colloquio il proprio avvocato difensore, negli orari stabiliti da ciascun istituto e previa verifica dell'effettiva nomina. In caso di detenzione, l'avvocato di fiducia può essere nominato anche da un prossimo congiunto, oltre che dal soggetto interessato. Diritto alle relazioni familiari ed affettive. Queste costituiscono uno dei principali elementi del trattamento penitenziario. L'articolo 28 dell'ordinamento penitenziario garantisce particolare cura a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con le loro famiglie. Infatti, nel caso di trasferimento da un istituto ad un altro, uno dei criteri per scegliere l'istituto di destinazione è quello della vicinanza al luogo di residenza della famiglia del detenuto. Il detenuto, inoltre, ha diritto ad informare immediatamente la sua famiglia, sia al momento dell'ingresso nella struttura detentiva che in caso di trasferimento. Il diritto all'affettività si esplica principalmente attraverso i colloqui sia visivi che telefonici. I primi si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo da parte della polizia penitenziaria. Ogni detenuto ha diritto a 6 colloqui al mese con familiari, quali coniuge, convivente, parenti e affini, fino al quarto grado e con terze persone solamente nel caso in cui ricorrono ragionevoli motivi. In particolari circostanze è possibile svolgere più di 6 colloqui, come ad esempio nel caso di colloqui con figli minori di anni 10. Il colloquio deve essere autorizzato dall'autorità competente e può essere richiesto sia dal detenuto che dal familiare. È inoltre concessa una telefonata a settimana a spese del detenuto. I condannati possono usufruire della corrispondenza, la quale, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, può essere sottoposta a controllo. Inoltre, per la cura che è riservata ai rapporti con la famiglia, anche in vista di una rieducazione del condannato, possono essere concessi particolari permessi per permettere al detenuto di visitare il familiare in pericolo di vita o di partecipare ad eventi familiari di particolare gravità. Prole in carcere. Può succedere che, oltre al condannato, facciano ingresso nei luoghi di detenzione i figli minori di 3 anni, che non hanno possibilità di essere accuditi altrove o da altro genitore. È un fenomeno in Italia fortunatamente abbastanza limitato e che è stato oggetto di svariati interventi normativi volti a renderlo ancora meno frequente. In generale, i minori possono uscire dal carcere per tutto il giorno. Spesso sono condotti all'esterno da volontari che li fanno rientrare la sera o passare la giornata in luoghi dedicati come asili nido o sale per i giochi. Nel nostro ordinamento, infatti, sono previsti la detenzione domiciliare ordinaria, in caso di condanna alla pena della reclusione non superiore a 4 anni, anche se costituente parte residua di maggior pena oppure alla pena dell'arresto. Queste possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza se il condannato è una donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni 10, con lei convivente o padre esercente la potestà di prole di età inferiore di anni 10, con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata. La detenzione domiciliare speciale per detenute madri di bambini di età inferiore a 10 anni che, dopo aver espiato un terzo della pena in carcere, possono scontare il residuo della pena presso la propria abitazione o in altro luogo di cura, assistenza o accoglienza. L'assistenza esterna di figli minori, grazie alla quale i benefici previsti dall'articolo 21 dell'OP per quanto riguarda il lavoro esterno, vengono estesi alle detenute madri di bambini sopra 10 anni di età per permettere loro di uscire dal carcere ed adempiere i doveri di cura e assistenza. Istituti a custodia attenuata per detenuti madri, i cosiddetti ICAM, gestiti dall'amministrazione penitenziaria, permettono che il bambino possa restare con la madre fino a 6 anni in un luogo a sua misura, senza sbarre né uniformi, luoghi più simili ad un appartamento che ad un carcere. Diritto alla salute. Ad ogni detenuto è garantito il diritto alla salute, in particolare attenzione riservata ai malati, agli anziani e in generale ai bisognosi di cure, i quali possono accedere a trattamenti riservati o a misure più adeguate alle loro specifiche esigenze, spesso non compatibili con il regime carcerario. Ogni istituto offre un servizio medico e un servizio farmaceutico ed almeno uno specialista in psichiatria. In caso di cure o accertamenti diagnostici da svolgersi fuori dal carcere, il detenuto è autorizzato dall'autorità competente ad eseguirli in luoghi di cura esterni. Al momento dell'ingresso e durante il corso della pena o della misura cautelare, il detenuto è periodicamente sottoposto a visita medica generale dal sanitario dell'istituto. Inoltre, il detenuto può sottoporsi a visita da parte di medico di sua fiducia a proprie spese, previa autorizzazione. e assicurato un'alimentazione sana, sufficiente ed adeguata alle condizioni di ciascun detenuto. È predisposto un locale per la consumazione dei pasti, ma i detenuti possono avere nella propria cella un fornello personale ed acquistare all'interno del carcere o ricevere dall'esterno generi alimentari nei limiti prefissati. I detenuti devono sempre avere a disposizione l'acqua potabile. Diritto allo studio. L'istruzione è uno dei principali elementi del trattamento penitenziario, ossia è una delle modalità attraverso cui attuare l'obiettivo di risocializzazione e rieducazione del condannato, assieme alla partecipazione alle attività culturali, ricreative e sportive. Sono organizzati all'interno degli istituti corsi di scuole dell'obbligo, corsi professionalizzanti, scuole di istruzione secondaria di secondo grado. Particolare riguardo è rivolto alla formazione scolastica dei detenuti di età inferiore ai 25 anni e più in generale nel favorire la frequentazione dei corsi universitari o equiparati. Inoltre, all'interno degli istituti di pena è sempre presente una biblioteca ed agevolato l'accesso a qualsiasi lettura. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. Diritto al culto. È riconosciuto a tutti i soggetti ristretti il diritto di praticare il proprio culto, di istruirsi, di avere l'assistenza spirituale e di partecipare a riti religiosi. È garantita la celebrazione dei riti di culto cattolico e la presenza di almeno un cappellano. Gli appartenenti alle altre confessioni religiose ne hanno diritto su richiesta. I ministri di culto possono essere ammessi, previa autorizzazione dell'autorità competente, al colloquio con i singoli detenuti. Diritto di voto. I detenuti o coloro che sono in esecuzione di custodia cautelare possono esercitare il loro diritto di voto in occasione di consultazioni elettorali in un seggio speciale, se hanno espresso la volontà di votare con dichiarazione scritta indirizzata al sindaco del luogo dove si trova l'istituto, almeno 3 giorni prima della votazione. È dunque una procedura molto complessa che spesso limita di fatto il diritto al voto. Altri detenuti, invece, in occasione della condanna, perdono tale diritto in via definitiva o temporanea. Si tratta, nel primo caso, dei condannati all'ergastolo o ad una pena superiore a 5 anni. Il diritto di voto viene invece sospeso per la durata di 5 anni in caso di condanna e pena definitiva fino a 3 anni. Non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, inoltre, coloro che sono condannati in via definitiva alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici temporanea o perpetua. Il lavoro. Il lavoro costituisce per il detenuto uno degli elementi fondamentali del trattamento carcerario in vista del suo reinserimento sociale, tanto che, come stabilito dall'articolo 15 dell'OP, gli è assicurato, salvo i casi di impossibilità. L'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario ne stabilisce lo svolgimento. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera, al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale negli istituti penitenziari. Oltre al lavoro è favorita in ogni modo la partecipazione a corsi di formazione professionale, e di soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito. I detenuti e gli internati che mostrano attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto attività artigianali, intellettuali o artistiche. La durata della prestazione lavorativa non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, e alla stregua di tali leggi sono garantite il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Il lavoro può essere svolto all'interno dell'istituto o all'esterno ed è in ogni caso remunerato e non ha carattere afflittivo, ma anzi è particolarmente incentivato proprio per permettere la rieducazione e il reinserimento sociale che costituiscono il fine ultimo della pena. Ed infatti le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Sono inoltre previsti particolari sgravi fiscali e contributivi per le imprese che assumono detenuti o internati, le quali possono accedere ad un credito d'imposta per ogni detenuto assunto. Un altro incentivo è dato dalla possibilità per le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, di vendere, previa autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia, prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto. Una particolare modalità di esecuzione della pena consiste nel permettere al condannato o all'imputato di svolgere l'attività lavorativa o di formazione professionale all'esterno dell'istituto penitenziario, come previsto dall'articolo 21 OPI. I condannati per reati comuni vi possono accedere senza alcuna limitazione, mentre coloro che sono condannati per delitti di particolare gravità devono aver espiato almeno un terzo della pena o 10 anni in caso di ergastolo prima di poter lavorare all'esterno dell'istituto, previa approvazione da parte del magistrato di sorveglianza di riferimento del provvedimento contenente le prescrizioni impartite dal direttore dell'istituto. La remunerazione per ciascuna categoria di lavoranti è equitativamente stabilita in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, all'organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. Essa confluisce nel cosiddetto peculio, ossia nel denaro di proprietà del detenuto anche al momento dell'ingresso in carcere, custodito nel periodo di carcerazione dalla direzione dell'istituto. Come far valere i diritti del detenuto? Il reclamo. Occorre innanzitutto precisare che anche quei detenuti che si trovano in stato di interdizione legale, proprio in ragione della condanna, esercitano personalmente i diritti che gli derivano dallo stato di restrizione e previsti dall'ordinamento penitenziario, tra cui rientra il diritto di reclamo. I detenuti e gli interessati possono rivolgere istanze e reclami scritti e orali, anche in busta chiusa, per far valere i loro diritti, articolo 35 dell'OPI. Di fronte alle autorità competenti, al direttore dell'istituto, il provveditore regionale, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Ministro della Giustizia, le autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, il garante nazionale e i garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti, il presidente della giunta regionale, il magistrato di sorveglianza, il presidente della Repubblica. Si tratta del cosiddetto reclamo generico, che prevede un procedimento senza formalità, criticato da alcuni perché poco efficace. Oltre a tale tipo di reclamo, è stato di fatto introdotto con la legge numero 10 del 2014 il cosiddetto reclamo giurisdizionale. Esso è rivolto al magistrato di sorveglianza, il quale svolge un generico compito di vigilanza e controllo del rispetto dei diritti dei detenuti, con eventuale potere di intervento e dell'attuazione del trattamento rieducativo, ed ha ad oggetto provvedimenti riguardanti le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa, il cosiddetto reclamo in materia disciplinare. L'inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria della quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio dell'esercizio dei diritti, il cosiddetto reclamo per condotta illegittima dell'amministrazione. Tale reclamo si svolge nelle forme del procedimento di sorveglianza. Può essere proposto dal detenuto interessato o dal suo difensore, munito di procura speciale, in seguito ad un provvedimento disciplinare che comporta una violazione dei suoi diritti fondamentali. È competente a decidere il magistrato di sorveglianza del luogo ove si trova l'istituto penitenziario del detenuto e può essere proposto entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare. Il magistrato di sorveglianza, una volta ricevuto il reclamo, se lo ritiene ammissibile, fissa l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso alle parti, compresa l'amministrazione interessata. All'esito lo può rigettare o accogliere, determinando in quest'ultimo caso l'annullamento del provvedimento disciplinare oggetto di reclamo e l'ordine rivolto all'amministrazione penitenziaria di porre rimedio alla situazione di pregiudizio in un determinato termine. Contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza è possibile rivolgersi, per un secondo giudizio, al Tribunale di sorveglianza entro 15 giorni dalla sua emissione e successivamente alla Corte di Cassazione solamente in caso di violazioni di legge, sempre entro 15 giorni. In caso di mancata esecuzione del provvedimento, che non sia più soggetto ad imputazione, si può richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Egli, se accoglie la richiesta, ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione, al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto e dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge. Il garante dei diritti dei detenuti. È istituito presso ogni ente locale, regione, provincia e comune il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il cosiddetto garante dei diritti dei detenuti. Esso è un organo elettivo, tenuto alla vigilanza e al controllo del rispetto dei diritti dei detenuti, può sollecitare gli organi predisposti e proporre eventuali iniziative legislative o amministrative. Il garante può accedere a far visita in tutti i luoghi di restrizione della libertà personale che si trovano nel territorio di competenza e ricevere istanze e reclami da parte dei soggetti a qualsiasi titolo ristretti. Il garante inoltre non necessita di autorizzazione nel caso di colloquio con un detenuto, e può avvalersi di collaboratori su autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Con decreto legge del 23 dicembre 2013, numero 146, inoltre, è stato istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nominato effettivamente per la prima volta solo nel 2016. Si tratta di un organo statale indipendente e collegiale, ad oggi la presidenza è affidata al dottor Mauro Palma. Oltre al generale e complesso compito di monitorare e sorvegliare i luoghi di detenzione, facendovi visita e redigendo una relazione, anche attraverso il coordinamento con i garanti locali, al garante nazionale sono affidate anche i compiti riguardanti la prevenzione della tortura o dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il monitoraggio dei rimpatri dei migranti irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e delle strutture per anziani e disabili.